aborigeno. Ma io e te, che cazzo se dovevo dire? Avanti, non sei niente, solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Eccoci nuovamente in onda. Dopo una lunga settimana di assenza. Bentrovati e bentrovati a 25 o'clock. Di assenza nell'etere, soprattutto per quanto ti riguarda, invece di presenza nella vita sociale, politica, emotiva e spettacolare della città. No, la presenza di questa settimana, per quanto mi riguarda, è stata abbastanza intensa e piacevole. Quindi ce l'abbiamo fatta sabato e domenica scorsa, per chi c'era, la SNIA. Una due giorni che andava così a sottolineare che è passato un anno da quando il nostro Fagiolino e Marina sono stati incarcerati in seguito alle sentenze della Corte di Cassazione per i processi di Genova 2001 e più recentemente anche Ines e Jimmy, catturato in Spagna. Ines, che è agli arresti domiciliari in quanto mamma di un giovane bambino o bambina, non mi ricordo, ecco, anche loro sono incarcerati, e a loro, come spesso facciamo qui a Radio Onda Rossa, comunque va un pensiero e va una vicinanza e una solidarietà e una complicità particolare. E complicità che c'è stata appunto alla SNIA, un grazie veramente a tutte e a tutti quelli che erano presenti e tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, come si dice. Quindi i gruppi che hanno suonato, la SNIA, il centro sociale, tutti i compagni e le compagne appunto che hanno dato una mano, come dici te, in maniera oscura, e a chi ha fatto lo spettacolo, sia quello teatrale sia quello musicale della due giorni, e a chi è venuto. Grazie e a presto. Oh, grandissimo concerto dei Bomb Machine. Io mi sono dimenticato della stanchezza accumulata delle settimane, ho ballato. Spaccano assai, sì, sì. Spaccano assai. E siete all'ascolto di 25 o'clock. 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale, questa è Radio Onda Rossa. Dal 1977 libera nell'etere. Ricordiamo le coordinate della radio. Punto di riferimento è il sito web, raggiungibile al www.ondarossa.info. Il telefono 0649 1750, 0649 1750. Potete scrivere all'email della redazione ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni. Invece, per gozzovigliare con noi o per sottoporci le vostre proposte, 25 o'clock 25 scritto al numero o clock@ondarossa.info, oppure oppure fantasma@ondarossa.info. Quindi scrivete, fatevi sentire, entrate in contatto con noi, creiamo relazioni, entriamo in connessione. Come diceva un vecchio come si dice, adagio, un vecchio slang, una vecchia citazione da un vecchio disco che non mancheremo di mandare questa sera, forse l'unica cosa che manderò: serrati bisogna essere uniti. E serrati ed uniti a sostenere questa radio potete farlo sottoscrivendo al conto corrente postale della radio 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185, Roma San Lollo. Se non vi ricordate queste coordinate, potete trovarle sul sito della radio, come potete sottoscrivere comodamente con PayPal cliccando su sostieni. Ed iniziamo le selezioni di questa serata. Dal secondo disco di Danzig, Soli Fugge. Ci ascoltiamo Killer Wolf. I'm on a pound you, oh, I'm the wow, oh, I'm on a pound you, oh, I'm the wow, oh, I'm on a quindi dal secondo disco di Danzig, dopo l'esperienza con Misfits and Samhain 1990. Questa era la ballata oscura blues Killer Wolf. E difatti sembrava quasi che si rivivessero le atmosfere epiche degli anni 90, proprio quando negli anni 80 e 90, soprattutto forse la parentesi più importante, più significativa, che più i vecchi ascoltatori e ascoltatrici della radio ricordano, di Next Time, proprio la trasmissione che precedette il nostro tentativo, diciamo, di continuare quell'esperimento importante, appunto, che viaggiò per quasi calcola dalla metà degli anni 80 fino al 2001. Quindi, cioè, un venticinquennale. Avete abbracciato, cioè, delle uscite discografiche, insomma, interessanti, no? Cioè. No, perché ho detto 25 anni? Ah, non lo so. Scusa, dall'85, 15 anni. 15 anni. Esagerato. Un 15 anni, poi ormai noi siamo arrivati dal 2002 al 2003 a 11 anni di 25 O'Clock, insomma, una bella storia. Dicevi Ma solo per dire che lo spirito continua. Solo per dire che alla fine c'è un filo, un qualche cosa, un'emozione, come si dice? Un DNA. No, volevo dire un'altra cosa, una telepatia. Ecco, qualcosa di non detto, non scritto, non dichiarato, che però continua e... Un'empatia. Beh, sì. E noi continuiamo appunto con questa empatia. Facciamo un salto di 3 anni. Questa è un'uscita del 1993. L'abbiamo ascoltati forse qualche volta, non ricordo. Loro si chiamano Monster Magnet. E ci ascoltiamo un pezzo da Super Judge, un pezzo non loro, un pezzo di un altro gruppetto che non abbiamo mai ascoltato, un altro che non conosciamo. Sì, è tutto a caso, poi Monster Magnet, sì, sì. La decima traccia di Super Judge. Ma porta le mutande di latta qui? Probabilmente sì. Okay. Però non sono dichiarate, però insomma lui porta esclusivamente mutande di latta o rame. Dave Widorf, esattamente. E manifestano in questo disco il loro amore per lo space rock, come se non si capisse dal genere che fanno, e tributano, come si dice, un'altra costante di 25 O'Clock. Ci ascoltiamo la decima traccia di questo disco, che è Brainstorm degli Hawkwind. E dopo i Monster Magnet abbiamo continuato ad esplorare le atmosfere lisergiche space con i Baby Woodrows del loro Third Eye Surgery, discone del 2012. Questa era la settima traccia, Love Like a Flower. E riconosciamo una certa somiglianza nella voce di Dave Guidorf. '23:26, questa è 25 o'clock, 87.9 Radio Onda Rossa. '06:49:17:50 E noi continuiamo con le atmosfere estive. Atmosfere calde, acide del deserto. E ci andiamo ad illuminare con un sole insonnolito. Da un disco che è Fever del 2010. Loro sono gli Sleepy Sun. Ce li ascoltiamo con la prima traccia del disco, che è Marina. Mm-hmm. flushes white, warmer tones than before. Outline flushes free, a free of life. Trouble in your e loro erano i Graveyard dal disco Lights Out, ennesima produzione dalla Svezia qui a 25 O'Clock. E si sentiva il suono svedese. 25 O'Clock, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. E fra l'inizio proprio, 23:40 minuti primi, all'inizio proprio della trasmissione ci davamo appunto l'inizio della SNI, eccetera, eccetera. Grazie, possiamo darle un grazie in più a tre persone qui della radio che comunque si sono sbattute molto in questi ultimi tempi. Stiamo parlando della nostra Martis, la Schiena del Sol, stiamo parlando di DJ Giano, ex conduttore di 25 O'Clock, e stiamo parlando di Murder Farts, mitico sostenitore della causa appunto dei trattori. Stiamo parlando di trattori. Di gente che traina dei carichi impossibili e lo fa senza mostrare fatica. Grandi al femminile. Eh sì, grandi è l'unica. Grandi. When we all fade away. E quindi allora, visto che proprio con Marco l'altra sera stavamo ascoltando in macchina in ritorno i Baboon Show, gruppo che ha apprezzato, e quindi dedichiamo appunto questo pezzo sempre dalla Svezia, Baboon Show. It's been a while now since we were Quindi dopo i Baboon Show a distanza il Magnetizer collabora con 25 O'Clock. Ha mangiato pesante ed è bloccato in uno dei posti più intimi della casa. A Magnetizer te mangi le melanzane che ha Nutella, insomma, dai. E quindi ci consiglia questo pezzo dei Dead Can Dance, Return of the She King. Penso che probabilmente a lui coaudiva. Qualcosa? Coaudiva. Co qualcosa. Qua trillano, eh? Trillano lo 06491750 da capo Dead Can Dance. E quindi dopo i Dead Can Dance con Return of the Shaking del loro ultimo lavoro Anastasis, proposta dal Magnetizers, bloccato e resistente. Restiamo nelle atmosfere spirituali. Ed arriviamo in Italia con gli Ataraxia. Quando sono piccolo, forse colpito da un calendario storico di Radio Onda Rossa appeso a qualche armadio di corviale, ho sempre avuto una sola radio di riferimento. Una radio che mi assomigliava per la sua scompostezza, per la sincerità, per la caciara, per il modo che raccontava, per il mondo che raccontava, quello che non ti raccontava nessuno, mai omologata a niente, di testa sua, di lotta. E se gli facevi uno squillo, magari ti mettevano pure la canzone da capo, così te la potevi registrare sulla cassetta. Ne sono ancora fortemente dipendente, Quel segnale che disturba è ancora oggi uno dei miei punti di riferimento. Lo stesso spirito di sempre, lo stesso veleno, poca forma, dritta, ostinata, sempre senza una lira, ma sempre senza pubblicità, senza padroni, capocciona. Sì, lo ammetto, sono un adepto. Ho 3 programmi irrinunciabili su tutti. Lo dico con una certa gelosia. L'ora di religione, visionari e dagli pure te. Dovunque mi trovo, quando vanno in onda, devo sintonizzarmi sugli 87 e 9. Questa era una citazione dalla preparazione del libro Il tacco del Duca, a pagina 7, signor Elio Germano. E questi erano i Radio Moscow, un'altra proposta del Magnetizer. Però cambiando di... virando dagli spiriti pagani verso il selvaggio rock and roll. È l'ora delle streghe. Quindi andiamo un po' a cambiare registro. Ed ora dal lontano Perù. La ira de Dios. Dal loro ultimo lavoro, Perù no existe. Questa era la seconda traccia da A Eulogy for the Damned, ultimo disco degli Orange Goblin. La seconda traccia è Stand for Something. Lotta per qualcosa o cadrai per qualsiasi cosa. Rimaniamo sempre in Inghilterra e loro sono i The Choir Boys. Cradled in my arms with eyes just like a child, I just bite my tongue, destroying all my pride. All this power, their torch is my denial. Against me is laughing at my rage. The truth is so unthinkable, I cover up my face. So powerful is blood and a soul. Sono i Choir Boys del disco del 2008 Homebreakers and Heartbreakers. Spike alla voce, una creatura che è cresciuta a pane. Pane Rod Stewart. Oh, e noi seguiamo il flow, pure noi. Mica solo il sabato pomeriggio. E quindi Badlands da Voodoo Highway. Whiskey Dust. Mezzanotte 24, questa è Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza. E siete all'ascolto di 25 O'Clock. Ed è giunto il momento, caro professore, perché Dobbiamo dedicare un pezzo. Di saluti ce ne sappiamo, però sentiamo chi vuoi dedicare. No, il prossimo pezzo è doveroso perché come primo sponsor di 25 O'Clock. È quello che pensavo io. Dobbiamo giustamente... La radio che non fa pubblicità a nessuno, tranne che... Tranne che Arbanana. Arbanana. Noi senza Arbanana saremmo persi. Eh sì. È quel di più che dà, capito? Anche quando non c'è. Quindi era un po' di tempo che non passavamo questo gruppo e lo dedichiamo a lui. Loro sono i Type O Negative. Sappiamo che lui apprezza. Sì, vabbè, c'è la trasmissione hip hop, fighissima, ok, però... Ma il Banana è Banana multifacce, ha mille facce. E quindi da October Rust... Tutta per il Banana. Ci ascoltiamo Red Water. Ma che era un trillo? Mica l'ho capito. Eh sì, da capo. We'll be right back. your faith will be tested. Our children's futures are resting with you. Rogers alla batteria, Guy Pignas al basso e Scott Weinrich alla voce. Già ascoltato queste parti con Eden and Sam Vitus. This field of yours, I can see. E questo è dall'ultimo disco degli Obsessed, The Church Within, uscito su Hellhound Records nel 94. E adesso invece ci andiamo ad ascoltare gli Stillborn. Dal loro disco del 1993, Necro Spirituals. E questa è Street Satan. Just a street Satan in that time. Dead Boys, Sonic Reducer. Mezzanotte 46. E siete all'ascolto di 25 O'Clock. Visto che non siamo stanchi, questo è il colpo di coda. E quindi da capo, Judas Priest. Quindi non appena abbiamo messo Judas Priest quasi come il fant- sì sì no quasi come si sente quello che dico sì sì benire no perché sono senza cuffie dico quasi come il fantasma, difatti siamo andati ad aprire, non c'era sì sì, ha suonato, abbiamo aperto la porta dico questo sarà un fantasma, me l'ha presentato il fantasma, dico sarà, e invece no, e invece è apparso con un ritardo adeguato. Beh, giusto. Insomma, ti abbiamo aspettato tutta la trasmissione. Abbiamo qui ospite a Radio Onda Rossa. Like una leggenda dell'underground romano. Direttamente dalla strada, no? Si diceva. Direttamente dalla strada. Sì, all'inizio non ci credevo neanche io ai fantasmi. E benvenuto Luca, benvenuto a 25 O'Clock. Grazie. Non credevo alla loro esistenza e da un giorno all'altro eccomi qui davanti sì. ad un fantasma. Come ci si sente? Riesco a vederlo, ma quello che non capisco è perché ha scelto me qui adesso. Cosa vuole comunicarmi a parte questa musica infernale? Come sono le strade questa notte, Luca? Ah, siamo passati subito alla viabilità? No, no, ma la strada, l'asfalto... Ah, la strada intesa come metafora. È libera. E i semafori sono tutti verdi stanotte. Perché i semafori ci comunicano. Vanno interpretati. Allora, secondo l'articolo del codice della strada, la lanterna semaforica ha il compito appunto di regolare il traffico veicolare. Questo proprio. Però trovare tutti i semafori verdi è un segno del delfino? Del delfino? Sì. Beh, se l'avessi trovati tutti verdi sarei arrivato in anticipo, mettila così. Ma ci vuoi parlare un po' del delfino? Quello che è la colpa del delfino. Ovviamente inteso anche questo come metafora. Sì, sì, sì, sì. Il delfino è quello... Che cos'è il delfino? È quel... Ha due enormi ali e anche le ruote. È un animale che vive dentro ognuno di noi. Comunque, a proposito dei delfini, c'era anche un film importante, no? Che ti invito lesto e tosto a preparare immediatamente. E il delfino, in quanto animale intelligente con le ruote e le ali, era appunto il protagonista, poi, e forse la seconda, credo, razza più importante che esisteva sì, sulla Terra, la seconda specie più intelligente del pianeta, in cui non, il primo non è quello che vi aspettate assolutamente. E qual è il primo? Il primo sveliamo. No, non sveliamo. I delfini sono i secondi. Sono i secondi. I primi, chi per supremazia regna sulla Terra sono i topi. La terza specie sono gli esseri umani. Certo, dunque. Aspetta che scrivo. Questa è una citazione importante, un trend union della trasmissione, che tanto intanto ritorna, esce fuori anche inaspettatamente quando il discorso vuole andare o non vuole andare da nessuna parte, comunque esce fuori sta roba qua. I topi. I delfini. Ascolta i delfini. Per il pesce, anche se in fondo ci ricresce, la vita a volte va così. L'intelligenza che c'è in voi non vi ha mai reso come noi, non c'è rispetto verso le cose belle. Vi salutiamo, grazie per come pesce. Il mondo si distruggerà, la colpa è vostra e si sa che tanti lo sapevano già. La pesca qui è tragica, è fuori da ogni logica, a volte di voi non sono cattivi affatto. Addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, addio, vi salutiamo, grazie per tutto il pesce. Io in testa ho un pallino, posso avere un pesciolino. Una cosa vorrei fare, imparare a cantare. Grande gioia infinita, tutti nell'oceano della vita. Eh sì, sì, questo era il saluto finale dei Delfini. Tra l'altro il Delfino è buonissimo in umido. volevi dire nell'umido dell'oceano, cioè sì, libero e felice, no? Libero di nuotare nell'umido dell'oceano. Vabbè, comunque il buon Luca dalla strada ci è venuto ad arricchire queste le selezioni di questa puntata di 25 O'Clock. Che cosa ci ha portato Luca? È un pezzo di un gruppo, gli Air of the Dog. Ivan Allen incontrano i Kiss nel nuovo millennio, proprio come Flashback. Wow. Air of the Dog, lo vogliamo raccontare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che cos'è l'Air of the Dog? Che noi siamo esperti, no? Che letteralmente sarebbe il pelo del cane, no? È quando la mattina dopo bevi la stessa cosa, l'ultima cosa che hai bevuto prima di andare a dormire. Cosmico. Vabbè, ci ascoltiamo questi Air of the Dog. Il pezzo che ha scelto è Color Me Fire. E ha qualche significato particolare per te? Forse l'ha ascoltato prima. Ce l'ascoltiamo. Sì. cars and lights. Show me where the action's hiding. I was born a bird, not sleeping at night. Wanna be the fire, fire. Girl, let me fire, fire, fire, fire. Girl, let me fire. E quindi questa era la proposta di Luca dalla strada, la sua strada. La strada come... come la strada. Proprio dalla strada. Sì. Sì, figo. Stavo giusto appunto notando che hai il microfono più grande del mio. Ma non conta questo? Dici di no? No, no, no, ma è tutto un fatto di prospettiva. Scusate, ma perché lui ha il microfono più grande del mio? No, ma ti assicuro è un fatto di prospettiva. Cioè è anche una tendenza a vedere più verde l'erba del vicino. Cioè vuoi prostrarmi? Mi hai invitato qui stasera per farmi notare come il tuo microfono sia più grande del mio, no? Questa è un'umiliazione pubblica. Ma infatti me lo immaginavo, sei come tutti gli altri. Vorresti dirmi che sono un rifiuto? Questo era l'aggancio, no? Rifiuto. Non raccolgo. Il prossimo pezzo è appunto Wasteland, la terra dei rifiuti. Wasteland, sì. Ce l'ascoltiamo, loro sono i Warrior Soul. Sì, ascoltiamoci l'anima guerriera, sì, sì, sì, volentieri. Drive-bys in LA. Quit it. you where I'll go. Gonna cross a border into Mexico. Tequila's cheap and sunshine. Wind up banging everything inside. I am free and that's a fact. Once I leave I ain't never coming back. I'm in the wasteland. I'm in the wasteland. Domine Patris, Spiritus Morbosus, Dios Madre Nepotes, Omnia Gallia est divisa in tres partes. Corpus dilecti duros, qui pro quo, veni vidi vici, ipso facto abemus papam, resistentia te salutan, cammina de pari passo dietro a me, nolite tangere, nolite dicere, non mi te rompere, e dai e vai e fai e su e ancora giù più su, e tempus fugit e toto cessat, cave a tempor, coitus interruptus, urge sanguis, sanguis sugar, promulier, che cazzus dicus amen. Norberg che galleggiava faccia in giù. In un caso come questo, senza nessuna traccia, bisogna pur cominciare da qualche parte. E questa qualche parte era l'area del porto. Ehi, ma... Allontanarsi! Allontanarsi! Non c'è niente da vedere qui! Coraggio, muovetevi! Dov'è che hanno trovato Norberg? Proprio lì in mezzo, Frank. Vuoi analizzare l'acqua? No, ho già fatto tutta l'acqua che avevo alla conferenza stampa. Non ha alcun senso, non credi? Poliziotto così in gamba, con un futuro brillante. E guarda cosa gli va a capitare. È stato ritrovato dai guardiani notturni. Forse è meglio dare una controllatina in giro. Io vado a parlare al capitano del porto. Io invece andrò a dare un'occhiata al molo. Sì? Tenente Drebin, in squadra di polizia. Ah, mi ricordo bene di lei, Drebin. Che cosa vuole? Voglio farle alcune domande. Lei ricorda per caso questa faccia? Non lo so. La mia memoria non è un granché. Poverino, certo. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio? Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno. Che cosa vuole sapere? Non glielo posso dire. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio? Va bene, si chiama Nordberg, è un poliziotto. Non è affatto un poliziotto, trattava eroina. Cosa? È vero, era uno poco pulito. Tu lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. E va bene, lavorava alla compagnia di navigazione di Ludwig. Ha cercato di vendere la roba a qualcuno dei miei ragazzi, lo giuro. E adesso che fai, poliziotto? Perché dovrei dirtelo? Forse questo ti può convincere. Non sono ancora convinto di dovertelo dire. Oh cazzo, mi presteresti $20? Adesso me lo dici. Va bene, andrò all'ufficio di Ludwig e scoprirò se dici la verità. Luca. E là. Luca dalla strada. Sì. Quello era Frank Drebin, vero? Sì, era proprio lui. Che bella topa. Frank Drebin. Com'è questa strada, Luca? A volte in salita, a volte in discesa. E comunque si compensa il più delle volte. Ma fa fatica percorrere questa strada, Luca? Ripeto, quando sei in salita a volte è più faticoso di quando scendi. Tu che sei abituato a dominare draghi d'acciaio. O sono i draghi d'acciaio che dominano te? L'importante è dominarlo. Anche se lui vuole la meglio. Sì, se non sai domarlo potrebbe portarti sull'autostrada dei guai, ecco. Allora bisogna mantenere sempre la barra. E cosa c'entra il rock and roll con tutto questo? Il rock and roll è quella cosa che va su e giù, ti sposta da una parte all'altra e a volte non ti fa dormire la notte, ma dopo un po' non puoi più farne a meno e ne vuoi ancora, e ancora, e ancora. E allora noi ce li riascoltiamo da capo, loro sono i Choir Boys, I Love This Dirty Town. Yeah. sono. Senti qua che tappetino, Il 19 luglio allo Spazio Anarchico, 19 luglio dalle 19 allo Spazio Anarchico, 19 lungo, il 19 assolutamente ricorrente, via Rocca del Cesinale 18 stavolta, metro Garbatella, festa per i 2 anni dello spazio. 2 anni fa, nell'anniversario dell'inizio della rivoluzione spagnola del 1936, abbiamo deciso di sottrarre al degrado e alla speculazione un locale della Garbatella. In 2 anni abbiamo lavorato per ristrutturare lo spazio e costruire iniziative autogestionarie, percorsi auto-organizzati, eventi musicali, teatrali e cinema, dibattiti, momenti di libertà. 2 anni di occupazione, autogestione, di lotta, di confronto, di dibattito, di elaborazione, di riflessione e solidarietà anarchica. Venerdì 19 luglio festeggeremo i 2 anni di occupazione con la partecipazione di chi vorrà venire, con canti, suoni e balli popolari. Venerdì 19 luglio, quindi, dalle 19 in poi, allo Spazio Anarchico 19 luglio, cibo, musica, info e bella vita. Via Rocco del Cesinale 18, metro Garbatella. E c'è pure una citazione di Enrico Malatesta, che non manchiamo nella comunicazione del gruppo anarchico Cafiero e del Fai di Roma. Tale è lo stato di cose esistenti nella società capitalistica e noi vogliamo radicalmente cambiare. E perché tutti questi mali radicalmente derivano dalla lotta fra gli uomini, dalla ricerca del benessere fatta da ciascuno per conto suo e contro tutti, noi vogliamo rimediarvi sostituendo all'odio l'amore, alla concorrenza la solidarietà, alla ricerca esclusiva del proprio benessere la cooperazione fraterna per il benessere di tutti, all'oppressione e all'imposizione, la libertà alla menzogna religiosa e pseudoscientifica, la verità. Enrico Malatesta, gruppo anarchico Cafiero, FAI, Roma. You drank up all the liquor, you drank most of. Questa era un'altra proposta del Magnetizers, loro sono i Titanic. Dal 1973, Norvegia. E invece loro sono i Jingo de Lunch della Germania. E noi vi salutiamo con questo pezzo. E rimettiamo da capo Growing Pains. Ce ne andiamo, sì. E sì. Perché domani si ricomincia da capo. 1:30 Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. E vi ricordiamo quello che in quest'estate è importante ricordare: quando si sta al fresco. Ma il fresco non è affatto fresco, è quel fresco delle carceri, come si dice, che invece è proprio tutto il contrario, è caldo d'estate, è freddo d'inverno. E dove la freddezza della disumanità, della disumanizzazione è sempre invece presente. Per scrivere, per tenere i contatti con Marina e Alberto, Marina Cugnaschi, presso la seconda casa di reclusione di Milano, Bollate, via Cristina Belgioioso 120, 20157 Milano. per scrivere a Fagiolino Alberto Funaro presso la casa circondariale Capanne, via Pievaiola 252-06-132, il CAP, quello di Perugia. E presto avremo anche i contatti di Jimmy. E invece Ines sta agli arresti domiciliari in quel della Sicilia. Condannati per Genova 2001. In via definitiva nostro imperativo è mettere fine alla loro reclusione. Facciamolo intanto facendo sentire la nostra presenza e scrivendogli agli indirizzi che abbiamo appena detto. Città che bolle, città d'asfalto. Città a cui bisogna resistere. Occorre muovere le acque della calma piatta, dello status quo, alzare il polverone, creare scompiglio. Onda Rossa 25 o'clock. L'ultima cosa che ve la metto per dare forza. Ritorniamo indietro di un bel po' d'anni, 22 all'incirca, ma il luogo più o meno è questo. Let yourself go. 06 49 17 50, recapito telefonico, Onda Rossa @ondarossa.info. Per scrivere alla redazione della radio 25 o'clock@ondarossa.info. fantasma@ondarossa.info per scrivere a noi altri. Non c'è alternativa all'assalto. Quello che noi abbiamo. Quello che noi abbiamo. Quello che noi abbiamo è quello che ci siamo presi. E quello che ci siamo presi è solo una piccola parte di quello che noi abbiamo bisogno. All'assalto. Come un assalto. Dopo il lancio del sasso nello stagno con la mano, tornare con in mano un'altra bomba pronta per sfondare ogni luogo comune, per sfondare ogni porta e ogni volta. Non è mai l'ultima volta, con il piede sull'acceleratore, con la mano in bocca ma troppa, troppa incoscienza, troppo stomaco, ci vogliono per chiudere la bocca. All'assalto. Sto ascoltando l'istinto darmi il ritmo. All'assalto. Nei sentieri del bosco. All'assalto. Preso per mano da un istinto, semplicemente allergico alla legge. Ho imparato chi protegge, chi difende la disprezzo, rispetto per chi fa vivere il mezzo tempo, il senso del governo. Solo come quello di porci perenni per sempre al governo e non ti fermi. Non voglio scuse, non mi fermo più adesso. Anche se da solo all'attacco lo stesso vado. Lui! Parlare per mostrare esitazioni e paure non posso. Mi stanno già troppo addosso, così voglio vendetta da tutte le parti. Rabbia! È quello che sto mostrando, ma in fondo un'esigenza che è quella. Il mio istinto si muove precipita ma cazzo allerta. Sto sempre pronto all'affronto, trepido il pensiero che a me venga il momento e non so fermare la mia voglia. Il mio cuore batte ancora dentro ogni parola, dimentica il dolore coinvolge, ancora lo senti, il cuore è sempre mio e lo difendo. Odio solo odio, odio quello che provo, per chi vuole bloccare il mio battito furioso e l'adrenalina sale. È un assalto frontale, in acquata il mio pensiero, non ci sto per cantare. Testardo, bastardo, chiamami come credi, ma io fino alla fine rimarrò sempre in piedi. In picchiata sto andando, usando il cervello, ormai è un'abitudine, mi danno un duello perché è un assalto frontale, senza paure. Hai sentito Luix? All'assalto, sto cavalcando un sogno è una realtà, è un sogno. Dipende da me, dipende da te, dipende dal cavallo. Hey, sono Castro ex soldato, sul campo un assalto, qui sto portando un assalto. Un puro sangue come mio compagno, la polvere si alza ma non è la sola. Un intero platone col cuore in gola, al passo al trotto, alla fine al galoppo. La velocità mi libera, sto andando all'assalto. Forza o paura di quello che faccio, ma distinto, c'entra nel bersaglio. Parlare senza paura è come un fiume in rotta, senza paure, un cuore in fiamme racconta. Assalti, grande risorsa di forza pronta, andare dentro la tua testa come un treno in corsa. Farà pezzi, con tutti i presidenti e i loro servi riflessi, come in un gioco di specchi in ogni angolo del mondo. Ogni giorno, giorno, ogni notte, notte, un'orribile notte, un grande giorno nel pianeta non si dorme. Uomini, donne, ogni persona è una storia, è la sua storia, nelle mille storie umane che amo, amo vedere correre. È un assalto frontale, nelle terre d'Oriente, nel sud del mondo, nelle terre della fortezza, occidente, dove mai, mai, dove non cambia mai niente, tutto è come prima e come sempre, dove non cambia mai niente. Parola di presidente tragica, ridicola, grottesca, macchietta, giustizia, dove sei nascosta, vedo arrivare merda, valanga, le spalle al muro, le porto in prima linea, in questa nostra terra di nessuno. Serrati, dobbiamo essere uniti. Serrati, dobbiamo essere uniti. Senza luna al freddo, guadagnando terreno sul nemico, fra la giungla e l'assalto all'assalto, seguendo la natura d'animale braccato, fra il pensiero e l'istinto reagendo, muovendo il contrattacco e frontale l'assalto, contemporaneamente nello stesso sogno, forse tremendo il destino in agguato, ma di certo non abbandono il campo. Senza paure, senza paure, è un assalto frontale. E anche stasera quindi abbiamo rubato la nostra ora. E ringraziamo perciò chi è venuto, chi è, non è potuto intervenire. Fino a Milano. Chi l'ha fatto per delega? Stazione inesistente chiamata Roma Nomentano, un punto in mezzo a niente, un mondo in un mondo intorno. Luca il Magnetizer. Cemento che accento, allora 100.000 treni in aria. Coloro che sappiamo ci sono. Intorno a me, solo il calore dei colori, di sogni raccontati sui muri dai graffiti. Anche se alle volte tengono. Passa, non può più cancellarmi. Lo 0649 1750. Quanto avresti voluto più tempo per parlarci. Non testimone della loro presenza. Sull'orlo dei binari questo giorno rincorro mille pensieri e ho da farti un duro racconto. Hanno bussato. Un saluto pure a Alessandro e alla sua marcia indietro. Quello che era successo nella notte al corto, quando ero lì ho visto l'inferno, un incendio, l'inferno di lamiere, e sotto le macerie un fiore. Alcuni piangono, altri non. La programmazione di Radio Onda Rossa in diretta finisce qui per quest'oggi. Domattina riprenderà con la solita programmazione estiva, quindi non aspettatevi grandi ritmi, perché anche noi siamo stanchi giorno dopo giorno. We'll be right back. e non della radio, del tempo, non posso fermarmi, mi urlo di andare avanti e ti voglio dire, anche se non lo so. Siamo stanchi perché luglio è come minimo. Se non possono più esserci lunghi sorrisi in questa valle. Tiriamo il carro da un bel po' di tempo. Se nella vita così è il nostro viaggio. E onestamente non ne possiamo più, questo carro vorremmo rovesciarlo. Quindi domani mattina appunto la rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei giornali, poi la rassegna stampa con le notizie dalla città, i redazionali della mattina, il giornale radio, lo spazio comunicazione, visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, la trasmissione di TV che tirato dall'occupato, che non so se ha forse interrotto per la pausa estiva, però non lo sappiamo. Attica Blues, la schiena del Sol. Profonda Rosa che credo invece si sia fermata, quindi qualcos'altro. La compagna automatica che comunque ci coadiva in questi tempi estivi. Giornale radio delle 19.30, lo spazio comunicazione Allegro con Fuoco, che invece ci sarà la musica classica Bella Mortimer. Il Noctibus Panis con le sue repliche e di nuovo rinnoviamo la nostra vicinanza a Fagiolino. E Apostasia a chiudere la notte di Radio Onda Rossa. Nelle valli, una luce azzurra lampeggiante con un urlo regolare a intervalli. E in un istante. Bella così. Voi volete fare i saluti finali? Buonanotte a tutti e glitteratevi. E con questo abbiamo quasi detto tutto. No, bella, buonanotte. Contate i giorni, tra una settimana stiamo qua. Eh sì. Buonanotte. Bella, a risentirci. Sulle domande di quei fottuti sotto la luna comunista. La vita di militanza. communismo.